ci ha raggiunto in collegamento telefonico Marco Allegri, food blogger di Non Solo Turisti. Buongiorno Marco. Ciao a tutti ragazzi, buongiorno. Ciao Marco, come stai innanzitutto? Ma bene, dai, sono un po' al fresco, sempre qui in Galles e quindi non mi lamento. Beh, devo dire la verità che il freddo è arrivato anche qui a Napoli. Un po' meno, perché oggi c'è il sole, quindi la mattina è freschino, poi si riscalda la giornata, infatti non si sa mai come ci si deve vestire per andare a scuola, all'università, al lavoro. È un grande problema. Marco, ascolta, oggi noi parliamo del primo giorno, che sia lavorativo o scolastico, e ovviamente è sempre stressante. Cosa e dove possiamo andare per rilassarci un po' dopo i primi giorni? Ma se c'è la possibilità, io raccomando, consiglio sempre di andare in una città, in una città d'arte, oppure in una città un po' alternativa, no? Per trovare un po' di sperare un po' la propria fantasia e girare per vivere la città, insomma. Poi, sia in Italia che all'estero. Io ad esempio sono in Galles e quindi potrei consigliare Cardiff, per esempio, con i voli low cost. Quanto deve essere più o meno secondo te il tempo da dedicare a una città dopo un primo giorno, dopo la ripresa del lavoro? Quanto tempo bisogna concedersi? Ma io di solito consiglio sempre almeno un paio di giorni, giusto per anche solo abituarsi ai nuovi ritmi, alla nuova cultura, al tempo e appunto questa nuova città, e quindi almeno un paio di giorni sono... Un paio di giorni escludendo quelli del viaggio, giusto? Quindi partenza, sì, due giorni, ripartenza. Sì, ad esempio si potrebbe partire il venerdì e poi ritornare, non so, venerdì mattina e si ritorna la domenica sera. Però a volte con i viaggi low cost, con i voli low cost, appunto, si può partire in un'ora e mezzo sia a Cardiff, per esempio, un paio d'ore massimo, e poi sia tutto il giorno dal venerdì, il sabato e anche domenica, quindi in teoria sono quasi tre giorni. Marco, noi oggi parliamo di primo giorno, però può essere anche un primo giorno di vacanza dopo tanti mesi di lavoro, quindi quale meta consiglieresti magari per le prossime ferie, che saranno quelle natalizie, come meta rilassante? Però ci andiamo a rilassare, come qualcosa, una pausa. Qualcosa magari a tema natalizio, perché si sa, ci sono tanti posti in tutta Europa caratteristici proprio nel periodo dei mercatini. Sì, esatto. Ma guarda, Natale a me particolarmente piace l'Alto Adige, perché l'atmosfera è proprio quella natalizia, sia dei mercatini ma anche le montagne elevate, i paesini tipici della zona, e poi ci si rilassa perché in quelle zone c'è la cultura della spa, delle saune, il bagno turco, e quindi uno volendo si può fare qualche giorno tra una passeggiata nei mercatini e l'altra, e riposandosi e rilassandosi poi la sera in una spa, no? Oppure pomeriggio in un bagno termale, un centro appunto adibito a questo. Allora, più rilassante di così si muore, ecco, lo possiamo dire. Allora, ascolta, esatto. Marco, io direi che è ottobre, ormai è iniziato, e dobbiamo affrettarci per prenotare le prossime ferie, che sono quelle appunto natalizie, quindi ricordiamo i tuoi contatti per tutti i nostri ascoltatori per chiederti qualche consiglio su dove andare quest'anno. Allora sì, contattami, trovate su Instagram e Twitter con Viaggiatori e Non Solo Turisti su Facebook, quindi mi trovate un po' ovunque, insomma. Perfetto Marco, allora noi ti salutiamo, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento alla prossima. Oh, perfetto, grazie mille ancora per l'opportunità e ci sentiamo presto.